veicolo a 48, quello normale. Adesso è uscito il modello nuovo, BSI. E quanto viene quello? Non lo sai? È così, quanto l'hanno 48, perché l'hanno cambiato l'anno, hai capito? Allora 48 quello normale, non c'è più, è uguale, preciso, identico, però il BSX fanno quello lì viene, perché non lo fanno più il normale, capito? Ho capito. Beh, adesso vediamo. Per adesso mi tengo questo, poi quando non entrano più soldi facciamo la stazione molto migliore, capito? Cominciamo a metterci, come avevo prima, un Belfort a valvole, capito? Ah, devo mettere un proteggiatore. Via. Le metto quello che avevo prima in campagna, avevo il Belfort, non so se l'hai conosciuto a valvole. L'ho già sentita questa, e quanto dava? No, io avevo con l'alimentazione tutto quanto, avevo intorno tra 40 e quello là, sparava intorno ai 500. Ma se sei in campagna comunque non conviene attaccarlo alla corrente di casa, io te ne mangiare un puntatore. Adesso tanto costa un poco, io c'ero tutto in campagna, costano poco quei gruppi elettrogeni da 1000 così. Attacca uno di quelle e via. Adesso vediamo. Quando mi piaccio, mi guido un trasformatore, se così, non ha detto, intorno ai 50 euro, capito? Per fare neanche un bel po', da cosa lo prendo, se l'aveva a Torino, ci dici 50 euro, un trasformatore. Trasformatore? Poi se vuoi un amplificatore piccolo ti do un consiglio, tu prendi 747 e non sbagli, fino a 10 watt gli dà l'ingresso, non di più, prendi un baracchino che ha fino a 10 watt, no, non oltre, perché altrimenti poi si sporca la razza se dai troppo ingresso. E quelli lì sono magnifici, sono i migliori amplificatori di piccola cosa che fanno veramente bene. Così. Ma devi cenare a tu? No, adesso devo fare cosa, quindi adesso tra un po' devo mollare. Hai capito, Giuseppe? Perché quelli hanno fino alla morte, non ti fanno saturare. Non sono come quelli che si usavano una volta, te lo ricordo, il 150, mamma mia. Io me lo ricordo. Allora, uno di quello là mi aveva dato a coso, non so se l'hai conosciuto, il CD, Alboretto. Alboretto, usciva da Senori, capito? Questo qua da Senori. Questa cosa qua di questo apparato che me l'aveva prestato, no? E per provarlo, vedere come sparava. Insomma, come l'attaccavo, cazzo, porca puttana, cazzo. A Claudio io dice, abbassa un po' quella cosa, cazzo, mi stai spaccando le orecchie, cazzo, porca troia. Ma saturavano quei fogli lì. Non erano molto. Però è più. I più buoni, cioè quelli che vanno veramente bene, poi c'erano gente che lo modificava e andava bene, però quelli che ti puoi fidare adesso sono 747. Ma adesso ho visto che da Busano c'è quel microfono a tavolo, il costo 45 euro costa. Cosa stai dicendo? O l'MB+5 o l'MB+4? L'MB+4, quello lì. Ah, cavolo. Già fanno di più, bisogna vedere, se bisogna modificare, cambio la capsula e fa di più. Di solito li si mette sempre la capsula telefonica. Dipende, o va bene già da subito, se no deve modificare. perché devi fare modifica una volta che prendi quell'apparato lì. Devi fare modifica, capito? Devi fare i collegamenti e vedere che vada bene per l'apparato, capito? E capo. Se no anche il circuito si fa una modifica lì per il più forte. E si modificano quando non vanno tanto bene, non si adattano. Ok. Ok dai, ti devo salutare. Oh Giuseppe Leonci, dai. Ciao ciao dai, ci risentiamo. Via, tu. Già ci sentiamo io te. Già rimango qua, già rimane acceso il canale, dai. Ok, dai, ci sentiamo più tardi, dai, ciao ciao. Ciao.